Il centro socio-educativo è sempre e esclusivamente un centro aperto, quindi tutti i progetti in esterna che facciamo siamo molto più fuori che all'interno del centro. Ma perché? Perché fuori noi possiamo lavorare per la comunità, farci conoscere, conoscere la comunità e essere integrati in essa. E questo è fondamentale. Vi faccio se volete un esempio, c'è una persona che per la sua disabilità fatica a comunicare e quindi usa un determinato tipo di strumento che si chiama comunicazione aumentativa. Quando si va al bar, perché è importante per lui questo momento, magari può succedere che alza la voce per dire che è felice. Nel mio caso, riesce a dirlo, lo può segnare e può alzare la voce per dimostrare questa sua emozione. Una persona si è avvicinata dicendo: ah, sei contento? Questo è importantissimo, perché questo è proprio il passaggio che questa persona non si è soffermata a dire urlo, paura, scappo, ma urla, vedo che segna l'emozione della felicità e riconosco la persona per quello che è. Qui non facciamo quasi niente all'interno del centro se non per aumentare le abilità di vita, perché con l'idea che potranno poi andare a vivere in autonomia con una coabitazione, e poi tutti i progetti in esterna perché sentirsi parte della comunità è.